fermi. Chi ha parlato faccia un passo avanti. Richiede palle, fare dei commenti. Stringete i denti che arrivano raffiche di pallottole dove tengo iarvele. Scemo non ridere se non l'hai capita nemmeno. Sono sarcastico su queste cose davvero, perché nella mia testa ho zero storie gangsta. Rimo perché mi piace, ok basta. Il top di delinquenza l'ho raggiunto quando ci hanno beccato con una canna d'Urban 4. Cazzo l'ho fatto e non avevo un ferro macchina che pacco. Questa è la mia fedina penale, contento. Sono un rapper, sì, puoi chiamarmi MC. Faccio rap da anni e mi diverte, sì. Non mi importa se non ti piaccio, perché ciò che faccio lo faccio solo per me. Apri bene le orecchie, come tu sai. Questa roba ti prende come non mai. C'è qualcuno di nuovo che sta arrivando. Smooth B e l'MC che stai ascoltando. Apri bene le orecchie, come tu sai. Questa roba va spinta come non mai. C'è qualcuno di nuovo su questo beat. È semplicemente Smooth B. Yeah. A 13 anni già scrivevo rime. Sentirsi un produttore a 16 con il campionatore. Dopo tutti sti anni rimasto a far bagagli, un clandestino in situazioni inconvenienti. C'è chi ha provato a fregarmi, chi mi ha tradito tra i tanti, chi ha anche provato a cambiarmi. E una marea di perdenti che hanno mollato quando tutto cambiava in meglio. Sono rimasto da solo sopra sto foglio. La vita è strana e ti riporta sempre alla partenza. Io ci ho provato a cambiare senza speranza, ma poi lo vedi nella tua coscienza. E non è mica semplice svoltare rinchiuso in una stanza. Mi garantisco un futuro partendo da adesso, per questo firmo un contratto con me stesso. Sicuro non ho sogni né di gloria né successo. Per me è durato quanto la durata di un amplesso. Apri bene le orecchie, come tu sai. Questa roba ti prende come non mai. C'è qualcuno di nuovo che sta arrivando. Smooth B e l'MC che stai ascoltando. Apri bene le orecchie, come tu sai. Questa roba va spinta come non mai. C'è qualcuno di nuovo su questo beat. È semplicemente Smooth B. Se, se, faccio musica, faccio ciò che mi dà sfogo. Dall'hardcore al commerciale me ne frego di vari commenti che potrebbero aver seguito. Magari perché canto melodico me la menano. Io ascolto tutto tranne dance, non solo hip hop. La black che mi condiziona dal funk al soul. Avere limiti per me è impossibile, ma per vendere dovrei cantare canzoni stupide. Certo la vita potrebbe essere più facile. Avere un singolo in top 10 sarebbe l'apice. Cantare in uno stadio per 60.000 e donne che per te fuori casa fanno la fila. E invece tutto non è mica poi semplice. Per 20 ascolti su MySpace è già difficile. Suonando in una birreria per 100 gatti, raccimolando briciole che sembrano contanti. Apri bene le orecchie, come tu sai. Questa roba ti prende come non mai. C'è qualcuno di nuovo che sta arrivando. Smooth B